Quel ramo del lago di Como volge a mezzogiorno. Questa sera ho fatto uno strano incontro. Mi sono ritrovato con i bravi tutti intorno. Il mio nome è MC Don Abbondio, yeah. Non fatemi del male, lasciatemi stare. Dicono che il matrimonio non sa da fare. Frate, non celebrarlo, poi te ne penti. Ora è 00, la notte dei tormenti. Don Rodrigo pensa al rapimento di Lucia, ma in quel momento Renzo incontra i bravi in osteria. Tutti bravi amici. Poi ti fottono Lucia, mica la bici. Il trama racconta la serie obbediente, la cattiveria di quel prepotente. Fu la perpetua a dir che crudele, mentre in silenzio puliva le mele. Oh Alemanzo, portami via, i miei sposi preferiti sono Renzo e Lucia. Oh Alemanzo, non posso stare senza la mia migliore amica e la divina provvidenza. Oh Alemanzo, a volte mi chiedo se al firmacopie del tuo libro c'eri solamente te. Oh Alemanzo, lo so che è una follia, molto poster sopra il letto di camera mia. Vado a messa spesso, non sono violento. Lucia, se fossi in te non entrerei in quel convento. Ma c'è un pensiero fisso nella mente che mi ronza. Mi fido pure no di questa monaca di Monza. Renzo ci sbattendo la porta, andò nel negozio a disdire la torta. Tutte le speranze diventarono rimasugli. Poteva far qualcosa, azzecca garbugli. Mi sembra poi banale nominare ciò che non vuoi nominare. Mi sa non hai capito, parlo dell'innominato. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. Ma con questo ritmo che va piano piano, Renzo lentamente arriverà a Milano. Scappo dalla peste come Don Rodrigo, scendo con i bravi ma non faccio il figo. Oh Alemanzo, portami via, i miei sposi preferiti sono Renzo e Lucia. Oh Alemanzo, non posso stare senza la mia migliore amica e la divina provvidenza. Oh Alemanzo, a volte mi chiedo se al firmacopie del tuo libro c'eri solamente te. Oh Alemanzo, lo so che è una follia, molto poster sopra il letto di camera mia.